Mezzogiorno nella piazza di Greve. Ecco, questa è la piazza di Greve. Oh, it's beautiful. Bellissima. Sì, è una bella piazza ed è anche molto antica. Risale al XII secolo. Greve è un paese molto importante. È la capitale del Chianti. It's very crowded. È affollata per la festa del vino. Entriamo nel padiglione. Ci sono gli stand dei produttori. E c'è anche il nostro, lo stand di Italia Bella.